Bene, allora possiamo iniziare questa serata. Buonasera a tutti, io sono Fabrizio Fabio, lavoro in biblioteca provinciale italiana Radio Russa. Oggi purtroppo non c'è la direttrice che ha un impegno di lavoro e quindi faccio io una velocissima presentazione per non rubare troppo spazio alla conferenza che sarà sicuramente molto interessante. Quindi la serata è dedicata a Umberto Eco, chiaramente non ha bisogno di nessuna presentazione, e abbiamo invitato l'avvocato Arnaldo Lona, uomo di grande cultura, di biofilo, appassionato e conoscitore di Umberto Eco. Insieme a lui Giancarlo Riccio, che è un giornalista del Corriere del Trentino, del Alto Adige, e della lettura anche dell'inserto del Corriere della Sera. E poi abbiamo la nostra lettrice, Maria Gianetti, che con la sua bellissima voce ci leggerà dei brani scelti da Lorenzo. Ancora una piccola cosa per i prossimi appuntamenti della biblioteca, sempre alle 18 qui al Centro Trevi, i prossimi appuntamenti sono lunedì 20, abbiamo il libro di Elio Cimbelli, che è il fondatore e direttore dell'associazione Separati Divorziati, che ha fatto un libro sui 30 anni dell'associazione. E il 23 abbiamo un autore esordiente, Guzzalino, che ha fatto il suo primo romanzo, si chiama Gianluca Battistelli, aveva fatto prima un romanzo di poesia, adesso ha fatto un libro di poesia, adesso invece fa un romanzo vero e proprio, si titola Inconfessabile, e lo presenta appunto giovedì prossimo, insieme a Maria Pia Genetti ancora, che ci verrà ad aiutare con le letture. Poi abbiamo un altro autore che non è per niente esordiente, che è il nostro Ettore Principale, che verrà a presentare il suo nuovo libro, che si chiama Vestivamo meno peggio, questo è il 27, e l'ultimissima iniziativa prima della pausa estiva della biblioteca sarà una cosa molto interessante secondo me. Il 30 di giugno viene un professore del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento a cercare di farci capire qualcosa in più delle onde gravitazionali, di questa complicata definizione di Einstein, che è sempre stata confermata dai recenti esperimenti. È lui che è un divulgatore scientifico molto, molto in gamba, e vi aspetto tutti nella mia sessione di 2030, perché è molto, molto interessante. Grazie di tutto e buona serata con la nostra conferenza. A voi. Buonasera a tutti, come canale, grazie di essere qua e grazie all'amico bibliotecario professionista che ci ha introdotto. Vi porto anche i saluti della professoressa Bisano, che si è affacciata ma poi ha avuto un'incombenza legata alla sua direzione della propria busta ed è scappata a questo appuntamento di lavoro. Allora, per parlare di Eco è un'impresa puntini semplicissima, perché se pensate a che cosa, se vedete un attimo su che cosa è stato il pensiero di Eco dal punto di vista scientifico, dal punto di vista accademico, dal punto di vista della ricerca, vi rendete conto facilmente, credo lo sappiate già molto bene, che ha abbracciato quasi tutto quello che si poteva abbracciare dal punto di vista storiografico, semiologico, storico, in senso più lato e così via. Ma proprio questa complessità lui l'ha resa per tanti anni non semplice, ma accessibile, sì, nelle aule della universitario che ho insegnato, che ci teneva tanto, l'avvocato Logra ce lo racconterà molto meglio di me, nei simposi, nelle occasioni anche conviviali. Io ricordo, salvo intervenire magari dopo su altre cose che riguardano la sua produzione scientifica, che qualche tempo fa riflettevamo con un collega che è responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore, con un collega del Venerdì di Repubblica, quindi eravamo tre fieri avversari, ma amici, del fatto che in Italia, ma quasi solo in Italia, viene considerato un po' sconveniente, che Umberto Eco avesse accettato una quarantina 40, lauree honoris causa, a parte i suoi come dire, titoli accademici legali, diciamo. In tutto il mondo questa cosa era considerata un valore raggiunto. In Italia, dove il mondo accademico, parliamo del mondo dei giornali, è quello che era considerato invece con una certa sufficienza, con molta stupida, puerile perfidia e con molta come se fosse una cosa che non andava bene, come se aver mangiato due volte la stessa pietanza a una cena fosse sconveniente. Affamato, come molti anni dopo avrebbe detto in un altro contesto un signore che si occupava di informazione digitale, folle anche, a proposito della stessa persona, ma non onnivoro, perché se guardate su YouTube e cercate dei video della vecchia Rai Bianchinetto, molto diversa, indovinate se il meglio o il peggio rispetto ad adesso, trovate delle cose di Eco che parla, di Beatrice che dialoga in due occasioni con Paolo Poli, un altro intellettuale che è vero, che di recente non ha deciso di andare in prego dalle parti di Eco, non so se si dice il paradiso delle persone giuste, o forse il purgatorio dove ci si diverte di più, però insomma se ne sono anche tutti e due, e hanno a lungo retto l'impatto della televisione in bianco e nero quando l'alternativa, peraltro valida, era il maestro Manzi. Ve lo ricordate, l'avete sicuramente acquisita questa informazione per sentito dire, quindi non in modo diretto come telespettatori un po' maturi, però ecco, questo era Eco, onnicomprensivo ma non onnivoro, di grandissima e simpatia. E prima di introdurre l'avvocato Loren vorrei soltanto ricordarvi una cosa. L'anno scorso Eco ha pubblicato il suo ultimo romanzo, poi sta a vedere se tra i suoi manoscritti avevo delle sorprese. Posso solo dirvi che non lo escludo, ma aspettiamo i prossimi mesi, i prossimi 2 o 3 anni, visto che di diritti, di copyright, eccetera. Ebbene, nel romanzo numero 0, ambientato nell'Italia di qualche decennio fa, giornalista di pochi scrupoli riceve l'incarico di battezzare, di impostare un giornale fatto apposta perché attacchi gli avversari del proprietario di questo giornale. Vi ricorda qualcosa? Esattamente quello. Ecco, lo fa, lo scrive in un modo straordinario, come molti gli hanno riconosciuto. Lui si scriveva un po', quando riceveva complimenti per quanto riguarda questo romanzo. Questo romanzo racconta di alcuni giornalisti senza scrupoli che, guidati dal direttore altrettanto, scusate la citazione alla guardia di Filippo, petente, provano a minacciare, brandendo non il manganello ma appunto la penna e la carta stampata, a minacciare gli avversari politici del proprietario di quella testata. Allora, vi ricordo questo, esce questo libro, Eco era ancora in ottima salute, ma secondo me anche adesso sta bene, le mancherà Renate, gli mancheranno i nipotini, ma secondo me sta bene. E un collega del Corriere, Luigi Battista, che credo voi conosciate bene da lettrice, da lettori, lo intervista, è una video intervista. A un certo punto Eco dice: guarda, Luigi, è capitato un po' anche a me nella vita reale questa cosa che racconto in numero 0. Tempo fa un giornale collocato a destra nell'editoria italiana, per parlare di comodità, mi ha attaccato, e da me chiede il Battista, ha scritto, dicevo, ha scritto che io una sera ero a cena in un locale di Milano con un uomo sconosciuto, pausa, e poi uomo sconosciuto, era un mio carissimo amico, era sconosciuto anche a chi aveva scritto quell'articolo sul giornale, ma era un mio carissimo amico. Battista, che è molto sottile, che è un carissimo collega, aggiunge, e poi Umberto, non solo, ma tutto questo avveniva in un ristorante cinese, ovvero in un locale equivoco. Io vi invito a leggere, a vedere questo video, non so se sì, immagino sia disponibile, free, insomma, ed è una deliziosa, come dire, metafora di tutto quanto, di quasi tutto quanto, eccoci, ha detto in tutti questi anni, non solo come narratore, non solo come romanziere. Ma per conoscerlo meglio, io credo che, con l'aiuto poi della nostra amica che leggerà alcuni brani che Arnaldo e io ci siamo permessi di indicare, credo che adesso la parola vada a Arnaldo Logan, che è amico personale di Ego, amico personale di Frau Renate, e che è una fonte inesauribile di ricordi vecchiani. Io ne ho già raccolto qualcuno per un mio pezzo, sul mio giornale e altre cose, vi assicuro che sarà un racconto irresistibile. Prego, Arnaldo. Grazie, buonasera. Io devo la mia presenza qui al 103 a un grande privilegio, al privilegio che ho avuto di intrattenere un rapporto d'amicizia durato 11 anni con Umberto Eco. Prima è stato un rapporto di conoscenza, nato dalla mia passione per i libri che mi ha fatto divenire socio di un club, l'Altus Club, che porta il nome del famoso stampatore Aldo Manuzio, e Eco era presidente di questo club. L'ingresso mio nel club e i viaggi fatti con lui, le frequentazioni, gli incontri, anche con Viviane, il primo viaggio Umberto Eco è stato ad Alessandria d'Egitto, nella nuova biblioteca straordinaria, meravigliosa nuova biblioteca costruita ad Alessandria d'Egitto, dove Eco ha tenuto ai professori, c'erano decine per non dire centinaia di professori delle università arabe, ha tenuto una conferenza su uno dei temi cardine della sua bibliofilia, della sua passione per il libro, la memoria vegetale e la memoria minerale. Eco ha scritto dei pezzi, come dicevo, straordinari su questa umanità che passa dal minerale, cioè le tavolette di argilla assiro-babilonesi, le pietre su cui gli egiziani incidevano i geroglifici, al vegetale, il papiro, la carta fatta di stracci, per tornare poi al minerale, cioè al silicio dei computer. Spero che non sia il mio, che credo di aver spento. No, non è il mio. Allora dicevo, questa amicizia è stata per me naturalmente fonte di grandi gratificazioni, perché frequentare Eco non significava soltanto apprendere continuamente qualcosa di nuovo davanti al suo straordinario sapere, alla sua sapienza, ma anche proprio vedere con i suoi occhi il quotidiano, perché Eco non si occupava soltanto degli suoi studi di semiotica, di storia medievale, si occupava di tutto. E su tutto sapeva con un'ironia graffiante, con umorismo, darci questa sua visione del mondo quotidiano di cui noi potevamo, come suoi amici, partecipare. Devo dire, ecco, anzi, il professor Umberto Eco, perché Eco ci teneva moltissimo al suo ruolo di professore. Aveva l'abitudine spesso dei nostri incontri, quando qualcuno di noi diceva qualcosa di errato o di non perfettamente corretto, aveva l'abitudine di dire: no, guarda, devo correggerti, ricordati che io sono soprattutto un professore. Questo suo ruolo è di fronte a un uomo che ha avuto mille aspetti nella sua vita, dallo scienziato allo studioso, al professore, allo scrittore, al saggista, di fronte a questo suo ruolo di professore, pur nella molteplicità di questi aspetti che si fondevano armoniosamente nella sua personalità, il ruolo del professore per lui era un ruolo essenziale. Io non sono qui per fare della critica letteraria, non parlerò degli scritti di Umberto, parlerò dell'uomo Umberto nel suo rapporto con gli amici e soprattutto nella sua passione per il libro, perché Umberto Eco era un vero bibliofilo, uno che non solo i libri li leggeva, ma li amava, gli piaceva sfogliarli, gli piaceva contemplarli. Nella sua biblioteca di Milano ci sono circa 40.000 libri, a parte poi altri libri conservati in una sua altra residenza di campagna. E questi 40.000 libri hanno diciamo, un contenuto che va dalla più profonda sapienza intellettuale fino al Corriere dei Piccoli e gli altri fumetti di Cino e Franco, di Flash Gordon, dell'uomo mascherato, perché era talmente vasto il suo campo di interesse, erano talmente tante le cose di cui si occupava, e la sua biblioteca rifletteva proprio questa vastità enorme del suo sapere. Diceva spesso Umberto Eco che era molto infastidito dal fatto che dei visitatori che venivano a casa sua, osservando questa enorme biblioteca che in piazza, viveva in piazza Castello, Sforzesco in piazza Castello, occupava un grandissimo appartamento. Allora, spesso i visitatori, ma anche persone di buon livello intellettuale, gli facevano questa banale domanda che lui odiava: ma professore, ma lei li ha letti tutti questi libri? E Umberto Eco rispondeva, diceva: io avevo vari che ospitavo, ma gli dico, spesso dicevo, no, se li avessi letti non li darei qui, li devo leggere il prossimo mese. Appunto, perché lui diceva: ma la gente non capisce che la biblioteca non è un qualche cosa che tu devi possedere dentro di te, è un qualche cosa che ti apre il mondo. Qualsiasi interrogativo, qualsiasi curiosità, qualsiasi aspetto della vita intellettuale, anche non soltanto intellettuale, tu debba cogliere, tu allunghi la mano e estrai il libro dalla biblioteca. La biblioteca quindi è uno strumento di vita, non è un qualche cosa che tu metti da parte leggendo i libri e tenendo poi in una posizione di esposizione separata quelli da leggere. Quindi lui, infastidito quando raccontava della sua biblioteca, però gli si illuminavano gli occhi, perché in effetti il bibliofilo, ecco diceva, i bibliofili, cioè gli appassionati di libri, sono tutti pazzi, però è meglio un pazzo con i libri che un pazzo senza. Questa era una frase che lui ha detto spesso. Quindi c'era proprio questa passione del libro, che era parte integrante della sua natura, perché c'è tutta un'aneddotica, e poi gli scritti sulla bibliofilia di Eco sono numerosissimi, c'è tutta un'aneddotica sul bibliofilo che ha un volume stampato su carta pregevole, in edizione limitata, quindi un numero ristretto di libri, e non lo apre mai, ma legge il tascabile, la stessa opera la legge in un tascabile da pochi euro per non rovinare la carta preziosa e il prezioso libro che tiene in uno dei settori della sua biblioteca. A proposito di questa passione bibliofila e dei suoi scritti, io pregherei la nostra lettrice di leggere uno dei pezzi di questo suo testo fondamentale, La memoria vegetale, che gli ho sentito raccontare ai professori delle università arabe ad Alessandria d'Egitto. Lui ha parlato in inglese, noi però avevamo un testo in italiano, perché altrimenti non, ma era bellissimo sentire, vedere quest'uomo con questa corporatura massiccia, perché io amavo in lui questa aria rassicurante che aveva, quest'uomo che si muoveva con lentezza, con questa corporatura e questo sguardo un po' burbero, comunque che c'era una vera capacità di affetto nei confronti degli amici. Era protettivo e rassicurante, per me era un piacere straordinario sentirlo raccontare, anche se magari non capivo niente di quello che diceva, però avevo per fortuna il testo da leggere. E a proposito di libri preziosi, credo che, se non ho capito male, di avere in mano uno. I libri non muoiono solo per conto proprio, talora vengono distrutti. Nei primi decenni del nostro secolo si è assistito al rogo dei libri degenerati fatto dai nazisti a Norimberga. Era un gesto simbolico, certo, perché neppure i nazisti avrebbero voluto distruggere tutto il patrimonio librario del loro paese. Ma sono simboli che contano. censura, proibisce i libri. Vuole distruggere o censurare la nostra memoria. Quando si accorge che i libri sono troppi e imprendibili e la memoria vegetale rimane minacciosa, allora distrugge memorie animali, cervelli, corpi umani. Si incomincia sempre dal libro, poi si aprono le camere a gas. Ecco, grazie moltissimo, anche perché insomma, abbiamo ascoltato un frammento di anche inquietante di quello che ci ed altri ci hanno raccontato nel Auschwitz in questi ultimi decenni. La storia è questo, non conoscerla credo sia una colpa molto molto molto molto profonda e molto grave, anche se in qualche caso si rimediabile se uno si mette a leggere come un pazzo. E a proposito di pazzi, avete ascoltato da poco, che rinuncio al mio secondo intervento, forse anche con vostro sollievo, a favore di Arnaldo Lorner, perché non solo bibliofilo abbiamo lasciato, grazie a chi ha letto il fragment di prima, un ancora molto spazio alla curiosità e al racconto loneriano, che non poi ci forse perché anche per il spirito tutto questo. Ci sta raccontando che in questa magnifica biblioteca del centro di Milano, che io ho percorso in monopattino per la serie, ma insomma è stata un'esperienza, ogni angolo andavo a fare contro un libro che era già molto eccitante. Era un appassionato di libri da lui, e come trattava i propri? Ma li trattava sicuramente bene, perché la passione del bibliofilo riguarda non solo il contenuto, riguarda il contenitore, riguarda il tutto. Però vorrei terminare anche quello che stavo dicendo prima. Io ho parlato di privilegio. Il privilegio conosce Umberto Eco, ma un aspetto, quindi il privilegio di avere un rapporto, quello di parlare con lui, di stare con lui, di frequentarlo, ma c'era poi un aspetto pratico importantissimo. Nei nostri viaggi, noi abbiamo visitato assieme alcune delle più importanti biblioteche d'Europa. Siamo stati a Coimbra, in Portogallo, siamo stati alla Marciana di Venezia, alla Biblioteca Reale di Madrid. Beh, in questi viaggi, quando Umberto Eco entrava in una biblioteca, naturalmente la visita era preannunciata, c'erano i direttori o le direttrici, e in particolar modo le direttrici, che sono molto sensibili al fascino intellettuale, come voi certamente siete, le donne sono molto sensibili al fascino del grande intellettuale. Per questo io nella vita qualche volta ho cercato di atteggiarmi all'intellettuale, ma non so se ci sono riuscito. Le donne sensibilissime alla figura del grande intellettuale aprivano le cassaforti, cioè noi abbiamo avuto la possibilità di vedere dei libri straordinari che nessuno vede se non i grandi studiosi. Alla Biblioteca Reale di Madrid la direttrice estrae dalla cassaforte Il Beato di Guevara, è un manoscritto sull'Apocalisse dell'anno 1047, quindi anno 1047, decorato da una serie di meravigliose illustrazioni con colori sfavillanti, oro, argento. Ecco, nel 73, noi siamo andati alla Biblioteca Reale di Madrid, credo nel 2007-2008, nel 73 aveva scritto un libro sul Beato di Guevara. Lui aveva scritto un libro su questa opera straordinaria, ma non l'aveva mai vista. Lui aveva visto soltanto le riproduzioni, naturalmente il testo riprodotto, e le riproduzioni di queste miniature, che però naturalmente non rendevano neanche lontanamente la bellezza dell'originale. Quindi era emozionato, eravamo insieme, ci volevamo questo libro. Tra l'altro questa direttrice, illuminata dalla presenza di lui, non ci ha mai fatto mettere i guanti bianchi. Alla Marciana, il direttore, ci ha mostrato una Divina Commedia con 200 miniature e ci ha fatto mettere i guanti bianchi, ci ha mostrato il testamento di Marco Polo, no, la direttrice della biblioteca reale di Madrid, ci ha messo in mano il Beato di Guanda dell'anno 1047 e noi lo sfogliavamo, non dico le canto civili, non dico che canto civili, ma insomma anche ecco, era affascinato da questo libro su cui 40 anni prima quasi aveva scritto un testo importante, ma che non aveva mai visto. E la cosa significativa in questo testo di Ricci, l'ho rivisto recentemente, su richiesta dell'editore, lui aveva scritto a mano due paginette eco su eco, e in queste due paginette lui diceva di sé: io sono nato ad Alessandria, che tra l'altro, spero non ci sia qualche abitante di Alessandria, diceva, è la città più brutta d'Italia. Vivo, lei è di Alessandria, qualcuno qua? Miei sono Alessandria. Però non si offenda, ecco, diceva, è la città più brutta d'Italia. È la città più... Vivo nella nebbia di Milano e insegno a Bologna, e diceva con orgoglio, dove c'erano i clerici vagantes quando a Oxford, cioè a Cambridge e alla Sorbona, pascolavano i cinghiali. Lui ha scritto in questo pezzo dove magnificava la sua appartenenza alla antichissima Università di Bologna. Quindi, dicevo, il privilegio di questa amicizia era poter veramente godere della visita di questi libri che altrimenti non sarebbe stato mai possibile, non sarebbe mai stato possibile avvicinare. Un altro piccolo aneddoto per dire com'era anche amabile nei confronti della gente. A Sorrento siamo andati insieme con altri amici della Duscle e lui in una libreria firmava le copie del Cimitero di Praga, che era appena uscito. Quindi la libreria, c'era una fila di persone che usciva dalla porta d'ingresso della libreria e che andava davanti a lui e lui firmava, faceva la dedica, uno gli diceva: scrivi a mia madre. No, scusa, no, a mia madre, dimmi come si chiama tua madre, perché se scrivo a mia madre sembra che sia la mia, non la tua. E a un certo punto, di fronte a questa folla, lui dice: bah, però state molto attenti, fra 100 anni, quello che varrà di più, il libro da cui potrete ricavare più soldi sul mercato antiquario, sarà quello senza la firma, perché tutti volete la firma. Il fortunato possessore di uno dei libri senza la mia firma, quello certamente potrà ricavare somme maggiori. Così, questo per dirvi qualche aneddoto di questa personalità straordinaria. Adesso gioco di pregare la prossima notte, possiamo leggere magari il secondo pezzo della bibliofilia? Sì, certo, volevo invitare tutto Maria a leggere di nuovo per noi e ringraziarla su un altro suggerimento tuo, no? Sì, sì, sarà sicuramente una invitazione eccellente. Prego. Il libro è un'assicurazione sulla vita, una piccola anticipazione di immortalità. All'indietro, ahimè, anziché in avanti. Ma non si può avere tutto e subito. Non sappiamo se conserveremo memorie delle nostre esperienze dopo la nostra morte individuale, ma sappiamo di sicuro che noi conserviamo memoria delle esperienze di coloro che ci hanno preceduto e che altri che ci seguiranno conserveranno memoria delle nostre. Anche se noi non siamo Omero, potremmo restare nella memoria del futuro come i protagonisti, che so, di un fortunoso incidente sull'autostrada Milano-Roma nella notte del 14 agosto. D'accordo, sarebbe poco, ma sempre meglio di nulla. Pur di essere ricordato dai posteri, Erostrato ha incendiato il tempio di Diana in Efeso, e i posteri purtroppo lo hanno reso celebre ricordando la sua stupidità. Nulla di nuovo sotto il sole. Si diventa famosi anche facendo la parte dello scemo del villaggio a Costanzo Show. Oggi vi dare un applauso per la nostra. Allora, la Verve e i Conti che hanno l'opera sono inesauribili. Avanti a lungo, credo. Non spaventiamo la notte di certo. una piccola pausa. Non spaventiamo per un caffè. Ma mi tocca a questo punto di spigolare tra i tanti libri di Eco, mi viene in mente qualcuno in cui, nei quali, alcuni dei quali si parla per esempio della traduzione. Da queste parti siamo abituati a tradurre continuamente, chi non lo fa sbaglia. Chi si chiude su una lingua è, credo, una persona infelice. E ricordo che una volta abbiamo parlato con amici comuni di una lunga e non esclusiva lezione su, sulla traduzione, nel corso della quale, a un certo punto, ha detto: bisogna, il traduttore fedele deve scegliere tra una infedeltà linguistica e invece preferire ovviamente una fedeltà testuale. Allora lo studente si è alzato e gli ha chiesto che cosa vuol dire professore, e lui più o meno ha detto: in inglese si dice piovono cani e gatti, il traduttore fedele dovrà cogliere questa particolarità e tradurre piove che Dio la manda. Ma se il recettore di questa frase è un ateo o altro, che cosa succede? Piove a Catinelli, potrebbe andare bene. Tutto questo raccontato da Eco in 10 minuti, quasi con la verba di Arnaldo Lorenz, ma insomma, anche Eco cercava di avere come capiremo sempre meglio nel corso di questo incontro. Questo è il modo che Eco aveva di insegnare, di scrivere, e come ricorderete tutti, quando è uscito Il nome della rosa, che poi ha avuto una versione cinematografica molto pop, anche se elegante, raffinata, alta, però molto pop, a partire dal cast e anche dalla regia, sono poi i due ingredienti di un film, quindi, la società accademica italiana, allora particolarmente stravica e comunque miope, gridò in parte allo scandalo perché con un illustre docente universitario si firmava un romanzo, ne accettava tradotto in decine di lingue, in due versioni, ne accettava persino avvisendone, vendendone i diritti, e quindi guadagnandone anche sopra, ne accettava una versione cinematografica e così via. Questo dibattito per fortuna non è stato molto molto animato, perché i critici di Eco in quell'occasione sono stati seppelliti da una risata e da più di una risata. Però insomma è rimasto un po' questa cosa che Eco dovesse e volesse scrivere un po' di tutto. I libri che ha nella sua, a tuttora, nella sua biblioteca milanese, anche appunto nella casa fuori in Piemonte, sono più o meno li aveva letti tutti prima di partire per altre destinazioni qualche mese fa. Però insomma ci ha insegnato anche un metodo, che è quello di leggere le cose quando servono, e insieme al contempo di accettare la suggestione, l'invito, la spinta a leggere una cosa anche quando magari siamo un po' stanchi, quando non ci sembra che sia il libro più adatto. Non è vero, i libri inadatti è difficile trovarne, salvo solo il catalogo di alcuni editori italiani, di alcune signore e signorine e signorini che hanno scritto delle baggianate incredibili, ma questo ci pensa il macero in questi casi. Arnaldo, abbiamo scoperto una web più intensa di quella di Eco. Che cosa vuoi dire da avvocato a tua discolpa? Chi era più bravo nelle battute? Tu o lui? Non c'è confronto. Io sono un modesto allievo che ha cercato di imparare qualcosa. Però vorrei dire, i miei ricordi sono tutti ricordi lieti, perché naturalmente viaggi, incontri conviviali, abbiamo festeggiato il suo 80° compleanno 3 anni fa, tutti ricordi lieti. Tra l'altro lui amava la musica, suonava il flauto dolce, ma non si è mai esibito per gli amici, però cantava con una bellissima voce. Io sono poco competente in campo musicale, definirei quasi baritonale. Cantava tutte le vecchie canzoni, le canzoni della guerra, Colonnello, Non voglio pane, Voglio piombo per il mio. Le conosceva tutte parola per parola e le cantava con una bellissima voce. Nei viaggi in pullman, a volte quando ci spostavamo per andare da una città, da una biblioteca all'altra, e lui ci metteva a cantare le sue canzoni, e per noi era una vera, veramente. Era un vero divertimento, anche perché altri, io no, perché sono stonatissimo, lo accompagnavano in questi canti. Ma vorrei, sono tutti ricordi lieti, tranne un ricordo che oggi, dopo la sua morte, diventa per me ancora più intenso, significativo, commovente. C'è un ricordo triste, che è di 2 anni fa, nel 2014, e che anche lì c'è l'impronta della sua personalità, come vi racconterò. Noi avevamo... Questo è l'Almanacco del Bibliofilo, è un libro che veniva pubblicato ogni anno con vari scritti dei soci dell'Aldusgrebe, eccetera. Quindi è un vero gioiello anche dal punto di vista tipografico. Il pilastro, il motore di tutto questo club, del nostro club e delle pubblicazioni, era Mario Scognamiglio, un libraio napoletano titolare della libreria Rovello a Milano, la libreria antiquaria Rovello. Mario Scognamiglio, già corrispondente dell'Unità, giovanissimo a Mosca, parlava perfettamente il russo, un uomo di una disponibilità umana incredibile. Alcuni anni fa, se ricordo bene, marzo 14, un po' prima, Scognamiglio chiama tutti gli amici dell'Aldusgrebe a Milano e dice: venite perché vi voglio incontrare e vi devo dare un ultimo scritto che ho fatto. Lui aveva scritto un libricino proprio sulle sue esperienze a Mosca come corrispondente dell'Unità, quando aveva conosciuto anche molti capi della nomenclatura sovietica. Io lo vedo, vedevamo tutti che era molto sofferente, sapevamo che era stato operato di una grave malattia, ma non abbiamo capito che in realtà era prossimo a morire. Scognamiglio sapeva che gli restavano solo pochi mesi e ci ha consegnato questo libro. Per lui è stato un gesto di saluto e a un certo punto dice, prende in mano il Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi e dice, e ordina Eco con un piglio perentorio, Umberto Eco, che era seduto con noi al tavolo, dice: leggimi il Cantico delle Creature. Tra l'altro abbiamo saputo dopo che anche Eco era stato operato, però Eco non ha mai dato nessuna notizia del suo stato di salute. Per me la sua morte è stata una sorpresa. Anche noi amici non sapevamo che avesse una tale gravità la sua malattia. Comunque Eco ha obbedito, non ha detto nulla, ha preso il Cantico delle Creature, dove c'è anche l'accenno, come tutti sappiamo, a sola morte, cioè l'elogio anche della morte, l'accenno a sola morte, ed ha letto questo Cantico delle Creature dall'inizio alla fine, proprio su questa richiesta pressante che gli ha fatto Scognamiglio, che sapeva che gli mancava poco, stava per morire. Ecco, questo poi dopo, con la morte di Eco, che a sua volta, insomma, non ha avuto molto tempo ancora, per me questo ricordo triste è particolarmente intenso, particolarmente significativo, e ci dice qualcosa su questi due uomini, su questi due grandi uomini, sia Scognamiglio, questo grande libraio, uomo di integrità assoluta, di competenza totale, e quest'altro grande pilastro della nostra cultura, che io credo francamente sia insostituibile, e credo che ci vorrà del tempo prima che ci sia qualcuno che in qualche modo possa esserli accostato o paragonato. Grazie. senza fare il preparatorio altro, non c'è dubbio che una delle collaborazioni più significative e più vibranti sia stata quella con l'Espresso, con il settimanale dell'Espresso, per il quale avevo ideato una formula un po' litigando con i direttori che sono visitati all'Espresso quando ha cominciato, ma comunque la formula era quella di un articolo nell'ultima pagina del numero della rivista, titolo ricorrente La Bustina di Minerva, allusione a quando i Mondi scrivevamo un numero di telefono appunto sul cartoncino dei cerini, o adesso non mi ricordo, e straordinario specchio non solo dell'Italia ma di tutto quello che succedeva. A me ha colpito un brano, un numero che non so come riuscite a trovare, colpa mia, in cui lui riconduceva la bravura nel lavoro giornalistico a quello di saper usare il congiuntivo. E noi tutti sappiamo quanto da lettori e da estensori di mezzi quanto avesse ragione, quanto abbia avuto ragione, abbia tuttora ragione. E in un'occasione conviviale molto episodica rispetto a questa messe di racconti straordinari, anche un po' carminiani, ma no? Andando bellissimi, gli ho chiesto se per uso del congiuntivo lui non avesse voluto usare una metafora. Si è complimentato, ovviamente prendendomi in giro, e poi ha detto sì, perché c'è modo e modo di raccontare le cose. Per esempio, se io vado alla conferenza stampa di un sindaco o di un ministro che si elogiano, c'è chi riporta quando il sindaco e il ministro o il presidente del consiglio o il presidente di Confindustria si sono detti addosso, e qualcun altro che invece nella stessa occasione approfitta per tirare fuori anche qualche critica, qualche perplessità, qualche dubbio rispetto al lavoro di quel personaggio. Questa è la differenza, abbiamo concluso facilmente e sorridendone molto, questa è la differenza tra il cattivo e il buon giornalismo. Quello di Eco sull'Espresso è stato un eccellente giornalismo, autonomo, che comandava per Pax questa cosa, una delle segretarie del direttore dell'Espresso di turno prendevano questa cosa, non sempre i direttori dell'Espresso scorrevano il testo prima e andava in tipografia, certo andava titolato, ma non era, anche questo non era difficile, e peraltro ricordava anche delle indicazioni su titoli appunto che potessero andare bene. Adesso ascoltiamo forse di seguito, se siete d'accordo, la lettura di due bustine di Minerva, e vi renderete conto, probabilmente anche ricordando di aver letto a suo tempo, di cosa fosse capace Umberto Eco, anche sui giornali. Prego. Grazie. Ebrei, massoni e radicasci. Mentre scrivo, non si è ancora esaurita la discussione giornalistica sul caso di Don Giannini, e vorrei subito dire che non sono granché interessato a sapere se le accuse che gli rivolgono sono giuste o sbagliate, perché errare è umano, sia che abbia sbagliato un prete, sia che abbia sbagliato un magistrato, e per il resto si tratta di faccende personali. D'altra parte ammetto che gli accusatori non solo sono carcerati o pregiudicati, ma vengono da storie di droga, e se sotto l'impero della droga si può immaginare di essere assaliti da un mostro con gli occhi di insetto, si può anche immaginare di essere baciati da un ecclesiastico dal bene, perché all'orrore, come sapeva Lovecraft, non c'è mai fine. Tuttavia l'aspetto più interessante della faccenda è quello, che invece è stato liquidato in due giorni, dell'affermazione che le accuse venivano da una cricca ebraica e radical chic. Poi Don Gesini, di fronte alla reazione ebraica, si è corretto, ha detto che pensava ai massoni. I massoni sono come l'Opus Dei o i gesuiti, meno si fa chiasso intorno a loro e meglio è, e quindi non hanno dato gran seguito alla cosa, anche perché nessuno ha mai ammazzato 6 milioni di massoni, hanno solo fucilato qualche carbonato in tempi di sorgi metali, e quindi i massoni su queste cose sono meno permalosi degli ebrei. Sono apparsi subito alcuni articoli, ricordo quelli di Serra e di Battista, che notavano come la citazione di Don Gervini rivelasse echi consci o inconsci di antiche polemiche clericali, e che questo costituiva l'aspetto più triste della faccenda. Infatti è più che noto che l'idea del complotto giudaico-massonico, prima di andare a nutrire i protocolli dei savi anziani di Sion, era nata in ambiente gesuitico e aveva percorso tutta la polemica anti-rivoluzione francese prima e anti-risorgimento dopo. Ma siccome al complotto giudaico-massonico ci aveva ormai rinunciato da quel dì lo stesso Vaticano, sembrava che questa immagine fosse rimasta sepolta in polverose biblioteche, di seminari, vescovili, lasciandone il copyright a Adolf Hitler e a Bin Laden. E invece ecco che un sacerdote che vive oggi e che ha presumibilmente studiato in seminario negli anni 30 e dunque dopo la conciliazione, dimostra di aver conservato nei recessi della propria anima ricordi, se non altro verbali, del mostro che aveva ossessionato i suoi maestri più anziani. Nel 1992 un povero cardinale, che non pensava affatto agli ebrei ma stava attaccando la mafia, l'aveva definita sinagoga di Satana. Apri il cielo! Subito era sorta una polemica a cui avevo partecipato anch'io con due bustine. Chi giustificava l'uso di quella espressione ricordava come sinagoga nei dizionari significasse anche riunione, adunanza, conventicola, e che se ne parlava già nell'Apocalisse. E il fatto è che non solo nell'Apocalisse il termine appare in contesto anti-giudaico, ma che il suo uso corrente è stato dovuto a un libro pubblicato nel 1893 da Monsignor Numeron. La sinagoga di Satan, dove si dimostrava che la massoneria, setta di adoratori di Lucifero, era pervasa di cultura ebraica, come del resto Equimenon era molto generoso, gli scritti di Ermete Trismegisto, gli gnostici, gli adoratori del serpente, i manchei, i templari, i cavalieri di Malta, e che attraverso di essa gli ebrei miravano alla conquista del mondo. Ora, dopo il libro assatanato di Maimon, che all'epoca aveva avuto molto successo, non si può più impunemente usare l'espressione sinagoga di Satana, così come non si può più agitare una bandiera con la svastica affermando che si tratta soltanto di un venerabile e innocente simbolo astrale di origini preistoriche. Annotavo qualche bustina fa che stanno apparendo da un lato accadute polemiche anticlericali e antireligiose e dall'altro riprese della polemica clericale e sanfilista contro il mondo moderno e, da noi, contro i miti risorgimentali e l'ideologia dello Stato unitario. Altro che passo di gambero. Però forse mi sbagliavo, non si tratta di un paradossale ritorno a polemiche ormai morte, bensì di un naturalissimo ritorno del rimosso, di qualcosa che era sempre rimasto lì e non se ne parlava più solo per la buona educazione. Ma chi è stato educato a temere il complotto giudaico non lo dimentica mai, anche se solo per via di frasi fatte, e anche se una patina di aggiornamento culturale permette di aggiungere espressioni come radical chic. Insomma, pare che ci sia chi non ha mai smesso di leggere, sia pure di notte, i romanzi di padre Bresciani. In questa vicenda l'unico aspetto che mi ha stupito è che nel suo confusivo citazionismo Don Gemini abbia tirato in ballo anche i massoni. ma il senso della conoscenza, visto che, e mi attengo a quanto ha detto lui, generosissimi finanziamenti ha ricevuto da Silvio Berlusconi, ex membro della B2, tessera 1816, codice E1978, gruppo 17, fascicolo 0625. Il testo appena letto è un'Agostina, beh, insomma, poi troverò la data, se no andate a cercare così vi divertite anche voi. Tessera P2, tessera membro P2, tessera 1916, codice E.19.78, gruppo 17, fascicolo 0625. Giornalismo, documentazione, fatti e cose che devono essere riportate. Questa antologia di cui stiamo percorrendo alcuni frammenti è legata alla nascita di una nuova casa editrice, la nave di Teseo, come credo sappiate, costituita da alcuni ex, da alcuni transfughi dalla casa editrice Bompiani, molto una casa editrice paludata, che è stata coinvolta, adesso non vi sto a fare tutta la storia, nella querelle, nella vicenda cosiddetta Montazzoli, cioè quando della vendita di RCS Libri, che è una galassia, comprende diverse case editrici, alla Mondadori. In quell'occasione la signora Marina Berlusconi, che in questi giorni è in pensiero con il papà e per il papà e siamo vicini, ha comunque confermato di essere una non amante dei libri, sostenendo che grosso modo che siano merce come qualunque altra. A differenza anche di alcuni del suo marasme, di Mondadori Libri, che invece per fortuna la pensano diversamente. Ma il punto un altro, a proposito di quello che poi continuerà a raccontarci Arnaldo Lohner, quando è stato chiesto a Eco perché sarebbe passato questa nuova casa editrice, Eco era l'autore di punta di Bompiani, insieme ad alcuni romanzieri. Lui ha risposto: l'ho fatto per il futuro dei miei nipoti. Vi invito a riflettere un attimo su questo, che poi ha investito anche molto denaro in questa operazione della nascita della nave Teseo, voluta fortemente da Emilio Ventascarpi, che di Bompiani è stata a lungo editor e che adesso grosso modo ricopre un ruolo importante in questa. Il primo libro che è uscito è stato questa antologia delle bustine di Minerva di Eco, e adesso vedremo quali saranno i prossimi libri, ma come vedete, chi comincia bene, puntini, puntini. Quindi Eco era anche un po' inquieto, insomma, l'idea di essere venuto più volte avversando la vendita di Bompiani a Mondadori era anche un combattente dal punto di vista della coerenza editoriale, no Anna? Certamente. Ma io mi avvierei, io penso che così ho raccontato così degli sprazzi, dei momenti di questa mia lunga amicizia. Io penso anche che abbiamo intrattenuto abbastanza questa gente attenta, perlomeno non ho visto evidenti segni di sonnolenza. Ecco, non ho visto evidenti segni, però io vorrei avviarmi un po' a una conclusione un po' finale. Nel dire, ricordandomi una bellissima opera teatrale che è Il Galileo di Brecht. Nel Galileo di Brecht si disquisisce sulla necessità dell'uomo di avere delle persone che abbiano delle caratteristiche eroiche, perché a un certo punto gli allievi di Galileo si rammaricano della sua piura, perché Galileo, voi ricordate, c'è una bellissima scena, una delle scene teatrali, io ricordo il Galileo fatto da Guazzelli col Piccolo Teatro. Galileo Galilei viene portato da Venezia, che fatto straordinario ha consentito di consegnarlo alla Santa Inquisizione, al potere della Chiesa. Viene trasferito a Roma, il Papa è nel corso della cerimonia della vestizione, lo stanno vestendo con tutti i suoi ricchissimi parutamenti e arriva di corsa uno dei suoi vescovi, dei suoi cardinali, e dice: Santità, santità, l'hanno portato, Galileo era stato trasferito nelle prigioni vaticane. E a un certo punto chiede questo messaggero: santità, dobbiamo usare gli strumenti? Voi capite a quali strumenti si riferisce, naturalmente, perché voi sapete che l'Inquisizione le torturava, c'erano gli strumenti appositi per convincere quegli renitenti a confessare, a parlare. E il Papa, che era un uomo che conosceva il mondo, gli ha risposto: no, basterà che glieli facciate vedere, basterà che glieli facciate vedere. E come sapete, Galileo ha abiurato. Allora gli allievi di Galileo, rammaricati, sconcertati, delusi da questa piura del loro grande maestro, si lamentavano del fatto che la terra non producesse degli eroi. Ma in realtà la terra ne produce, e per me, se permettete, questo maestro della nostra letteratura, io lo definirei tra quei personaggi. Eroe non è soltanto chi combatte, chi rischia la vita, eroe chi dà un contributo talmente importante alla società in cui vive da essere un momento di riferimento. E non dimentichiamoci che Eco non solo scriveva saggi, insegnava, scriveva libri, narrativa, eccetera, ma anche era attivo anche nel mondo di questo momento, cioè Eco partecipava all'Associazione Giustizia e Libertà, che è un'associazione di difesa dei valori costituzionali. Un uomo del suo tempo, nel suo tempo, ma un uomo, quindi quell'eroe di cui parlavano gli allievi di Galileo non è soltanto quello che ha il coraggio, diciamo, di rischiare la propria esistenza per difendere le proprie idee. Io mi riferisco ad un uomo che sappia dare il significato al proprio tempo, che sappia dare alle persone, non solo che come me hanno avuto la possibilità, la fortuna di frequentarlo, ma gli uomini del suo tempo, un contributo di intelligenza, un contributo di cultura, un contributo di riflessione. E sappiamo che cultura, intelligenza e riflessione sono anche le difese contro i mali del mondo. E non dimentichiamo che in questo momento storico i mali del mondo sono numerosi e purtroppo estremamente gravi. Vi ringrazio. Al quale chiederei di avere magari qualche minuto ancora di pazienza nel caso in cui qualcuno di noi volesse approfittare della sua presenza al NATO, anche perché dovete sapere che questa occasione è abbastanza unica, poiché poco dopo, qualche settimana dopo la scomparsa di Eco, la famiglia ha diffuso una nota subito raccolta dall'Università di Bologna, ma anche da tanti altri interlocutori, ed è una delle volontà testimoniali di Eco, per 10 anni di non organizzare convegni su di lui. Un colpo di cosa straordinario, ironico, sarcastico, sapido, una cosa bellissima che un po' tutti ci siamo impegnati a rispettare, sia la terra di Bologna, sia in realtà altrettanto comunque serie come la biblioteca Claudio Augusta e il centro Trevi di Bolzano. Mi Io voglio sperare che non mi arrivi qualche rimprovero dall'aldilà. No, anzi, io credo che riceverai grandi sorrisoni, speriamo che non sia solo tu il destinatario di questi sorrisoni, però ecco, ci sono delle deroghe come incontri di questo tipo. Questo incontro è il primo, speriamo che anche in altri posti d'Italia e non solo d'Italia seguano il nostro esempio. Ma tornando a Roma, c'è qualcuno che vuole interrogare l'avvocato Nonen? Anche il giornalista, ma soprattutto l'avvocato Nonen. Prego, prego. Solo un'osservazione, è stato detto quando è morto Ettore che è stato fatto un funerale laico. Sì. Ora c'è stato chi ha detto, ma perché scrivere un funerale laico? Funerale, basta. Funerale laico come se, diciamo, una personalità così, diciamo, fare un funerale di fede, diciamo, sia indegno o roba del genere. E perché mai il funerale laico? Noi siamo in una comunità cattolica dove che praticamente non mi sembra, insomma, fuori. Ecco, perché appunto era un personaggio. E i personaggi danno anche un buon esempio, come diceva lei, avvocato, che in un periodo così controverso in cui viviamo, di buoni esempi ce ne devono essere, di fede, perché di fede. Quando io leggevo oggi qualcosa che scrivevano su Hermann Hesse, il quale era convinto invece, amante e rispettoso di tutte le religioni, cioè sono tutte buone, quelle buone, ovviamente, quelle buone. E quindi, e non perché oggi parlare di religione sembra che sia una cosa, cioè, fuori moda, così, ma chi l'ha mai detto? Parli un po' più forte, grazie. Chi l'ha mai detto che oggi... Oggi mi dicevano si tende a essere irreligiosi invece che religiosi, come se essere religiosi fosse qualcosa di appunto di obsoleto, di decaduto, mentre invece mi pare che invece un uomo che presenta religiosità sia in qualche modo superiore. Prego, ascoltiamo la risposta. Sì, ma brevemente sul tema del funerale laico. Il funerale laico è stato coerente, la famiglia ovviamente ha rispettato la volontà di Eco, che non è mai stato credente, che non era, che credeva certamente nell'uomo, credeva certamente in valori spirituali universali, ma non era praticante, non era credente, quindi era ovvio che la famiglia optasse per il funerale laico, rispettando, credo, del resto una sua precisa indicazione. Ci sono altri interventi? Prego. C'è un signore di una fila. Non serve il microfono, parlo. Sento che è una bella voce. Dunque, una delle cose più positive che io riconosco in Umberto Eco è il fatto che se fosse vissuto qualche secolo prima sarebbe stato bruciato dall'Inquisizione, sacra Inquisizione, naturalmente. Non per niente ho fatto riferimento a Galileo, allora lui sarebbe stato bruciato perché probabilmente non avrebbe abiurato. Non avrebbe abiurato. Condivido. Si erano levate altre mani prima o ricordo? Solo così, complementandomi con entrambi, qualche, diciamo, appunto, che si scuserà un po' da nominalista, se vogliamo, rispetto, ecco, al dottor Friccio, in particolare, ecco, non studi semiologici, ma semiotici, ecco, ci teneva, e tutta la querela con Giulia Cristevao, meglio, Giulia Cristeva, non era di origine francese, è riferita a questo, quindi ed è anche proprio un riferirsi al semiotiche nell'accezione greca, insomma, perché la semiotica sarebbe stata praticata dai grammatici, questa espressione un po' di pansofia, cioè di sapere totale che appunto nel mondo antico classico veniva praticata. Poi ecco un'altra cosa rispetto a quanto è stato detto, io l'Agostino di Minerva, io non ho esperienza semantica del fumo perché non potrei farlo né in un senso né nell'altro, diciamo, no? Né nel fumo tradizionale né in quello diciamo meno quello che era considerato proibito, ma io credo invece che le bustine di Minerva si riferiscano all'altro, cioè appunto Minerva come essenza dell'intelletto e la bustina in polemica invece con le bustine che distruggono le cellule cerebrali, cioè il cervello. Sì, allora grazie della correzione di prima, i giornalisti sono spesso fallaci, certamente non faccio eccezione, grazie di questo distinguo che sicuramente ecco, avrebbe apprezzato. Devo invece renderle con molta simpatia alla Pariglia sulle questioni di Minerva, perché l'allusione delle questioni di Minerva alle questioni di Minerva come scatola di fermitri aperta è di Eco, quindi o vogliamo disturbarlo, ma di solito il sabato pomeriggio ad appare, soprattutto da qualche mese a questa parte, e gli chiediamo un'ulteriore precisazione, oppure dobbiamo attenerci a quello che ha detto lui in due occasioni, cioè io le consiglie di Minerva sono degli articoli brevi che ho scritto, che io scrivo pensando allo spazio bianco sulla scatola dei fiammiferi omonimi. Quindi questo io credo che ci avviamo alla conclusione di questo incontro, ma prima di salutarvi c'è un'ulteriore grandissima incursione di Arnaldo Lore. Ho finito, grazie Giancarlo. Tu forse credi che io sia un serbatoio inesauribile, sì. Io quello che dovevo dire, l'ho detto, sono stato pazientemente ascoltato, la mia conclusione affettuosa nei confronti di questo grand'uomo del nostro paese e della nostra cultura è stata presa e non ho nulla da aggiungere. Vi ringrazio solo per l'attenzione, grazie. E anche un ragazzino di 12 anni, il nipote di Eco, che ai funerali laici di qualche mese fa mi hanno detto al microfono con una voce un po' infuspata: sono orgoglioso di averti avuto come nonno. Grazie a tutti.